avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Sto vedendo che non ci siamo veramente. Questa mattina posi la domanda sul mio profilo Facebook agli ascoltatori: cos'è che voi sareste disposti a mettere in comune con il vostro prossimo? Cosa potreste condividere o cosa voi vorreste condividere? Le persone fingono di non capire, dicono: ah, le filosofie di vita, i pensieri, qualcuno mi dice la musica. No, io parlavo di qualcos'altro. Cosa mettereste in comune di concreto? C'è qualcosa che delle cose considerate vostre, proprie, di vostra proprietà, potreste pensare per ottimizzare i rapporti sociali, per arrecare meno danni all'ambiente, per migliorare la fluidità nella società, per aumentare il livello di benessere? Voi potreste mettere in comune qualcosa di concreto, qualcosa di pratico, di essenzialmente vostro, ma però considerato potreste pensare che magari dividendolo con un altro radicalmente migliorereste la vostra e l'altrui posizione. È molto difficile perché noi siamo affascinati da un principio che è molto moderno, molto legato alla contemporaneità. Oggi si parla di condivisione. Grazie, in rete è molto facile condividere. Ti mando le mie foto, ti faccio ascoltare la mia musica, ci scambiamo un filmato, chattiamo. Abbiamo luoghi comuni di condivisione, ma sono cose che non si toccano, non hanno concretezza, in fondo sono anche cose che non ci costa molto, sono cose a cui non rimane attaccato l'odore altrui, in cui non rimangono attaccate le impronte delle mani altrui, in cui i piedi degli altri non lasciano le loro tracce, in cui l'alone che c'è attorno a una persona, fatto di emotività, fatto di invadenza, fatto di corporeità, fatto di odori, fatto di tutte queste cose, non lascia segno. Noi siamo abituati e anzi ci sentiamo molto fighetti e molto moderni per il fatto che noi siamo nell'epoca della condivisione. Ah, condividiamo i saperi, grazie, che fatica condividere i saperi. Vatti a vedere il mio sito, il mio blog, guarda la nostra area condivisa e vedi un po' che ne pensi, magari scrivici sotto qualcosa. Non ti do niente di mio, semplicemente do corpo alla mia vanagloria, alla lussuria dell'esposizione del mio pensiero e vedo tu che ne pensi, sperando che tu ne pensi bene, ma se tu ne pensi male ancora meglio, perché io posso così essere veemente nel risponderti. Qua si crea e si fonda tutto il successo della filosofia web. Ma cosa condividereste di concreto? Condividereste casa vostra, la vostra automobile, i vostri oggetti, la vostra cassetta degli attrezzi, la vostra canna da pesca, le vostre scarpe, i vostri vestiti, i vostri affetti? Questo già entriamo in una zona lubrica che non vorrei toccare questa mattina, che probabilmente molti sarebbero più contenti di condividere la moglie piuttosto che Black & Decker, ma non siamo in questo campo, siamo in un campo molto preciso. Esiste una filosofia e anzi una branca della possibilità di vivere e socializzare condividendo cose, che ha studiato molto questo problema. Su questo problema oggi cercheremo di dare qualche risposta, di fare a voi qualche domanda. 800 24 0024. Il co-housing è un modello abitativo residenziale che prevede che degli spazi privati dei singoli appartamenti siano integrati a degli spazi ad uso comune, anche detti spazi comuni. E sono 8 famiglie che hanno acquistato assieme questa palazzina che vedete nel cuore della città di Torino e stanno utilizzando tutte le loro risorse per costruire proprio non solo il progetto di ristrutturazione architettonico, ma tutta l'idea che sta attorno all'utilizzo del co-housing. E ancora cerchiamo una famiglia, un appartamento. Cominciamo con l'oggetto primario che consideriamo la nostra proprietà assoluta, il circolo della nostra riservatezza, il punto di arrivo di ogni investimento economico, di ogni professione, di ogni progetto di vita, la casa. La casa, avere una casa propria, è il primo traguardo che permette la scalata a una possibile felicità terrena. Quando ho casa mia, perlomeno sto tranquillo, chiudo la porta, sono padrone di casa mia, fossero anche quattro pareti con due sgabelli, comunque casa mia. Il co-housing invece è rivolto a questo principio. Fa sì che non esista una casa mia, ma esista una casa nostra, esista una maniera di condividere la casa. Già da questo punto di vista potremmo cominciare a ragionare quanto questo può starci bene, quanto questo è adeguato alle nostre esigenze, quanto il nostro desiderio di possesso e di traccia personale sulle pareti, sugli oggetti, sui letti di una casa possa conciliare con questa esigenza. Domenico Trincale, buongiorno. Buongiorno a tutti. Domenico Trincale, direttore del mensile Terra Nova, è un esperto di co-housing. Questo termine, quanto è stato sedimentato e elaborato alle nostre latitudini, è ancora qualcosa lontano dalla percezione nazionale? Sì, sì, prima una correzione, in realtà il mio nome anagrafico è Domenico, ma mi faccio chiamare Mimmo. Allora vuoi essere chiamato Mimmo? Voglio essere chiamato Mimmo. Va bene, non c'è nessun problema. Il co-housing nasce molti anni fa in Nord Europa e arriva in Italia, è arrivato in Italia solo qualche anno fa, e diciamo che il seme che ha fatto nascere questa pianta, questo interesse, è stato un libro che si chiama Co-housing e condomini solidali, e pubblicato appunto da Terra Nuova. E dopo la pubblicazione di questo libro, via via che l'abbiamo presentato in diverse città d'Italia, sono sorte diverse, numerose associazioni, e addirittura alcune regioni, come la regione Toscana, ha inserito il co-housing, denominandolo edilizia sperimentale, nel proprio piano casa, e alcuni comuni addirittura hanno dato dei terreni edificabili perché vengano alle associazioni che hanno un progetto di co-housing. Ecco Mimmo, facci capire bene a questo punto in cosa consiste. Se volessi entrare in un progetto co-housing, cosa dovrei mettere in comune, cosa sarebbe mio, cosa sarebbe degli altri? Soprattutto le case in condivisione sono le case per la vita o sono le seconde case, le case delle vacanze? Sì. Che casa in condivisione, io direi uno spazio abitativo in condivisione. Fammi capire la differenza. Ecco, perché la differenza è che ogni nucleo familiare o un single ha il suo appartamento. Quello che si condivide sono gli spazi comuni, e questi spazi comuni cambiano da progetto a progetto, perché ovviamente il co-housing non è una ricetta bella e pronta, ma è un progetto, è un percorso. Mi sembra di aver capito che è esattamente l'opposto del gabinetto di ringhiera delle case del secolo scorso. Sì. Cioè gli spazi più intimi sono quelli personali. Ecco, gli spazi intimi sono quelli personali, il classico appartamento. Poi cosa succede? Che invece di avere, uno spazio per ascoltare la musica, un salotto, allora si decide che forse ci può essere un unico salotto per 5-10 appartamenti, ci può essere un'unica sala per il fai da te. Come ci fosse una tavernetta condivisa in un condominio, ecco. Ecco, però ma chi decide quale musica mettere quando si va lì? Tutto. Parte un po', scegliere di vivere in co-housing vuol dire essere disposti a mettersi in discussione, a mettere in discussione i propri gusti, e quindi anche i propri gusti musicali o i propri gusti alimentari. E rispetto a questo vorrei dire che proprio il mangiare è uno dei luoghi centrali di queste esperienze, anche se sono nati in Nord Europa, dove si pensa che in genere solo in Italia noi ci troviamo intorno alla tavola. Invece anche in Nord Europa il condividere i pasti non solo è un momento di socializzazione, ma è un momento di grande sostegno reciproco. Ecco Domenico, ti rendi conto che io ho provato, faccio un'esperienza personale, a convincere gli Umarell che abitano nel mio condominio a dire: abbiamo un meraviglioso terrazzo condominiale inutilizzato in cui c'è vista San Pietro e tutto, invece che tenerlo così per stendere i panni una volta ogni tanto, essendoci un ex gabbiotto come tutti i palazzi inizi Novecento in varie città d'Italia, in cui una volta c'erano i cassoni dell'acqua che non esistono più, dico facciamo una sorta di locale per tutti. Qua ci mettiamo una cucinina, un frigorifero, chi vuole, è come essere tutti ricchi, abbiamo improvvisamente un terrazzo enorme a disposizione. Ma hanno guardato come se guardasse un alieno, ridevano. E come fa la discoteca sul tetto? Ma guardate come avessi fatto una proposta oscena. Continuano a tenere quel luogo per fare le riunioni di condominio, per ammassarci scarpe vecchie e scatoloni. Non trovi che sia un po' distante dalla nostra possessiva e antiquata concezione di condividere anche la vita in comune? È sicuramente distante, e questo spiega perché questa scelta, questo modello in paesi come la Danimarca, la Germania, l'Olanda esiste da 40 anni e in Italia sta nascendo ora. Però io vorrei dire anche un'altra cosa, che il co-housing non si fa con il vicino di casa, si fa con un gruppo di persone con cui si progetta insieme un percorso per andare a vivere insieme. Ecco, questo è il segreto. Ecco, bravo. Si conosce. Nessuno si sceglie gli Umarell, che naturalmente con cui poi è costretto a condividere il condominio. Ognuno, diciamo, si prende un gruppo di amici con cui ha delle omogeneità di visione della vita, di scelte, di sensibilità, dice facciamo insieme un condominio. Cioè io con Intonti e con Chiappini non avrei problemi di fare il co-housing, con altre persone mi porrei dei problemi. Ecco, sono i miei colleghi che stanno al di là del vetro. E diciamo che la cosa importante è proprio il percorso durante il quale si incontrano persone nuove, perché l'esperienza dice che forse gli amici sono le persone con cui è più difficile fare queste cose, e invece creando l'interesse intorno a un gruppo nuovo insieme si fa un progetto, quello che oggi si chiama, si usa molto parlare di progetti partecipati, no? Dove insieme si decide cosa vogliamo condividere e come vogliamo condividere. Ecco, fermiamoci soltanto un secondo, sì. Mimmo Trincale, perché volevo introdurre a questo punto un altro ospite. Innanzitutto rinnovo l'invito a telefonare all'800240024. Quanto trovate plausibile questa idea nelle vostre vite quotidiane? Quanto potrebbe alleviare e risolvere alcuni problemi di convivenza? E quanto pensate invece che sia essenzialmente un'utopia ancora non adeguata alla nostra concezione della vita comune? Mario Cucinella, buongiorno. Buongiorno. Mario Cucinella è un architetto con cui abbiamo spesso parlato a questi microfoni, ideatore della casa 100K, una casa totalmente avveniristica, autoalimentata, autosufficiente, a impatto ambientale minimo e soprattutto pensata, immaginata come un esempio, mi sembra abbastanza vicino a quello di cui stiamo parlando. Nella sua casa 100K Mario Cucinella pensava molti spazi in comune, pensava comunque un'aggregazione sul tipo di quella che stiamo definendo? Ma sì, io credo che ci sia bisogno anche proprio di un nuovo modo di abitare. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un paradosso, no? Da una parte il sistema delle famiglie, la modalità con cui sono cambiate negli ultimi 50 anni, proprio la struttura delle famiglie, anche le nuove culture che si sono affacciate nel nostro paese sono evolute e cambiate, ma la tipologia edilizia è rimasta sempre quella, no? Io dico sempre per scherzo, non è che noi ci definiamo due camere cucina, cucinotto e corridoio, no? Noi non ci definiamo così, ci definiamo più forse per le modalità con cui noi viviamo e condividiamo il nostro modo di vivere, no? Quindi l'idea di costruire una casa che non è un'utopia, che io ci tengo sempre a dirla, è quello che oggi noi possiamo costruire, possiamo realizzare con le tecnologie che sono oggi assolutamente a disposizione del mercato, forse un nuovo modo di abitare insieme, senza togliere nulla allo spazio privato, che è uno degli ultimi luoghi in cui possiamo in effetti rifugiarsi da tutto quello che abbiamo intorno. È anche vero che possiamo costruire degli edifici dove il sistema di relazione viene in qualche modo messo in evidenza, quindi il sistema delle terrazze, degli accessi, magari non c'è più questo vano scala con l'ascensore, ma c'è un sistema di connessioni tra gli appartamenti che permettono anche di facilitare questa socialità. Si rende conto, Cucinella, che oggi i problemi che si discutono nelle riunioni condominiali, se si può mettere una rampa per le biciclette in un cortile, c'è chi dice no perché dopo con le biciclette passate per le scale davanti al mio portone, quindi io non voglio, non ho la bicicletta. Noi siamo ancora molto arcaici, o prima aspettiamo l'eliminazione anagrafica di una generazione di rompipalle condominiali, o decidiamo che queste case diventino una sorta di luogo di emigrazione per chi ha deciso di vivere meglio, più razionalmente e anche più felicemente. sì, bisogna anche dire che però qui non si tratta di fare una rivoluzione così complessa e completa. Io credo sempre che questi cambiamenti che si sentono, no, nella quotidianità, basta pensare alle modalità con cui i giovani hanno riscoperto l'idea di condividere lo spazio, di condividere degli spazi, di stare insieme, rappresenta anche una nuova frontiera, un cambiamento che avverrà. Io dico, ho l'impressione che noi dovremmo cominciare a costruire degli esempi, quasi un po' degli antidoti, no, contro quel principio che hai appena descritto del condominio, il luogo del terrore, no? Perché in realtà c'è un tessuto di persone che hanno voglia invece di condividere delle cose. Io penso che anche la gestione dei figli, ad esempio, dei bambini, sarebbe molto più comoda e ottimizzata se un condominio avesse un luogo dove qualcuno si occupa dei figli non soltanto propri ma anche quelli degli altri, invece che trovare 25 babysitter per risolvere i problemi dei genitori, se ne troverebbero due e si farebbe una sorta di nido condominiale, che sarebbe la soluzione più semplice, ma nessuno ha mai pensato di percorrerla. No, ma questo sistema, per esempio, che sta dicendo, è esattamente quello che sta succedendo in Francia. È impossibile per le famiglie nelle grandi città di portare i bambini all'asilo attraversando una città piena di traffico, è impossibile per muoversi nelle ore di prima mattina, e hanno permesso alle famiglie di organizzarsi, per cui una mamma può tenere fino a 5 bambini e questa è aiutata anche dai servizi sociali, no? Quindi in realtà c'è anche un problema proprio legato alle dimensioni delle nostre città, ai problemi che hanno le famiglie nel muoversi, no? Questi modelli che esistono anche per una forma di praticità fanno un po' fatica qui da noi ad attaccare, no? Però guardi, io credo che ormai il tessuto, le persone sono mature e bisogna molto contare sul fatto che anche la generazione dei più giovani, che fanno fatica a trovare un lavoro, hanno degli stipendi bassi, vedono nella possibilità di condividere anche una possibilità di creare una nuova identità e un nuovo luogo. Quindi è vero che ci sono i condomini che sono luoghi di conflitto, ma è anche vero che c'è una parte della nostra società che sta cambiando e lì noi dobbiamo dare una risposta. Ecco, Marco Cucinella, vorrei far sentire qualche ascoltatore, perché al di là del pessimismo da me espresso, pare che in maniera autonoma e randomica qualcosa stia accadendo. Franco, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, benissimo. Benissimo, senta, io ho questa realtà, nel nostro condominio a Milano, all'interno del condominio abbiamo creato una cosa pomposamente chiamata Clubhouse, dove ci vediamo, ci incontriamo, abbiamo creato una cucina, eccetera, eccetera. E dove l'avete fatto? Quando... Nel terrazzo? No, nel giardino che abbiamo all'interno del condominio. Ah, il giardino interno, sì. Ecco, il problema vero qual è? È che con l'andare avanti nel tempo... alcuni condomini non d'accordo che le spese, cominciano a dirti le spese ludiche non possono essere divise fra tutti, se fai una cucina devi avere l'autorizzazione dell'ARA, se fai dei giochi magari tombola Natale ti chiedono di andare dal notaio, insomma guardi, io che gestisco un po' questo divertimento collettivo, chiamiamolo così, è veramente drammatico. Sa Franco, però l'equazione felicità non viene messa mai in gioco nelle riunioni condominiali. Si parla del rumore che fanno i bambini, si parla dell'ascensore che non funziona, si parla delle ritinteggiature della rampa, delle scale, ma la felicità degli abitanti di un condominio sembra che sia qualcosa che non interessa a nessuno. Tutte le volte che uno pone comunque sul piatto delle proposte legate alla felicità, che sono appunto la rampa per le biciclette, lo spazio per i bambini, l'uso del terrazzo, ti guardano come tu avessi bestemmiato. Certo, guarda, io sto organizzando un torneo ma per sindicarte mi dicono ma ci vuole l'autorizzazione ministeriale. Beh, pur di rompere le palle, certo, è chiaro. Ecco, bravissimo, lei ha detto una frase meravigliosa, sì. Nessuno cerca la felicità, lo star bene, adesso felicità è già una parola. Ma lo dico perché ci sono passato. Guardi, lei immagini cos'è un terrazzo sui tetti di Roma che nessuno se lo può permettere, ce lo potremmo permettere tutti, solo di... Ma hanno guardato come avessi detto, ma siete pazzo? Il terrazzo per andarci a metterci delle sdraie e sedersi, ma scherziamo? E mica questa è una discoteca, questa è una casa dove vive della gente rispettabile. Io manco avessi detto voglio fare un casino con le bielorusse, no, semplicemente ho detto mettiamoci delle sdraie e ce lo godiamo. Impossibile. Bravissimo, ha perfettamente centrato il problema. Le dico, noi abbiamo una cucina, abbiamo creato una cucina, c'è il nostro amico che fa un risotto buonissimo. ci hanno lamentato dicendo: ah, ma questo qua non c'ha il cappellino, l'ASL deve dare il permesso, eccetera eccetera. È pazzesco. Beh, chiaro, uno trova tutto. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Nicoletto. Lei cosa è riuscito a condividere? Niente, io ho un pezzo di terreno che era un po' di tempo che non coltivavo più, così quest'anno ho deciso con degli amici e ci siamo rimessi a farlo, e trovo che è una cosa molto molto bella, perché ci troviamo tutti i giorni magari a dare l'acqua alle piante, così poi la domenica con le signore andiamo a fare la grigliata, il pane al forno, perché c'è anche il forno. E così vi preparate, quando sarete pensionati sarà il vostro massimo divertimento. L'intenzione del terreno l'avevo preso per questo motivo, ma ancora mi manca qualche anno per la pensione. E beh, però intanto si allena, quando sarete umarella andrete lì, sì, tutto, infatti, il giorno. Bene Giovanni, mi piace. Fabrizio invece. Fabrizio. Pronto? Cosa ha visto, cosa pensa che si possa condividere, che non abbiamo mai pensato a condividere? Qualcuno ci ha pensato, specie, però il mio sogno sarebbe condividere le lavatrici. Sì, vada avanti, sì, sta dicendo qualcosa di molto sensato, perché... Nel senso che noi ci troviamo in casa, questi mastodontici mostri bianchi... Che ci portano via mezzo bagno, potremmo metterci bagno, una doccia in più. Cucina, seconda, eccetera. Ogni tanto ci allagano la casa senza sapere perché, di notte ci si sveglia con 10 centimetri d'acqua per casa, mentre sarebbe tanto... La si usa per quello che è il macchinario, per il 10% della sua potenzialità. Se fosse messa negli spazi comuni in cantina non darebbe fastidio a nessuno e tutti sarebbero più contenti. C'è un locale lavatrici condominiale in cui ognuno va a fare il suo bucato con delle grosse lavatrici professionali, con un sistema di assistenza che ce ne permette la manutenzione continua, con tutti i detersivi sotto, ognuno va, si lava i suoi panni, fa il suo bucato, si stabilisce un ordine e saremo tutti contenti. Sembra facile, poi sentiremo i nostri esperti cosa rispondono rispetto a questa, mi sembra, plausibile proposta. 800 24 00 24, a tra un minuto dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, l'état de bracelet. 800 24 00 24, non riesco a contenere la smania immaginifica di quanti su Facebook si sono lasciati andare sui possibili oggetti onirici di condivisione. Chi parla di mogli, di mariti, di pensieri, di filosofie, ma nessuno vuole entrare nel problema pratico e concreto. Sareste disposti a destinare alcune aree comuni del luogo in cui abitate per migliorare la vostra e l'altrui vita? Molti mi scrivono: in Svizzera succede da anni, grazie al piffero, non a caso da anni noi migriamo verso la Svizzera. Sarebbe bello capire perché alle nostre latitudini sia così difficile. Silvia, velocemente. Buongiorno Nicoletti, dunque io sono architetto e l'idea del co-housing l'ho avuta per una cosa personale che devo realizzare. Partivo già dalle condivisioni delle lavatrici, della cucina, eccetera. Però la riflessione che volevo fare era sul discorso della cultura della condivisione, che secondo me è sempre esistita nella società contadina. Beh, lì per necessità, la mattina gli uomini uscivano tutti, andavano a lavorare, chi esatto, stava a casa si occupava della figliolanza di tutti, è chiaro. Esatto, c'erano queste grandi fattorie, c'era l'aia, c'erano degli spazi comuni, la cucina, c'era il forno dove si faceva il legno, per cui non è il legno, il pane è ancora cotto a legna. Non è un discorso che sì, rimane fuori. Non facciamoci nemmeno le favole sulla città contadina, dormivano anche tutti ammassati come animali in una stanza. Prendevano tutti i pidocchi. Sì, sì, i padri sfacciano le mogli dei figli e via dicendo, succedeva di tutto, capito? Esatto, però il discorso comunque esisteva, quindi forse riportarlo oggi all'interno della città dove le problematiche sono diverse, però può essere comunque una soluzione. Potrebbe però, architetto, lei mi darà ragione sul fatto che potremmo vivere tutti meglio se invece di chiuderci nei nostri loculi e osservare dal buco la chiave il vicino, decidessimo che ci potrebbero essere degli spazi in comune in cui comunque alcune attività per cui le nostre case sono troppo strette potrebbero essere fatte insieme. Sì. Sicuramente, infatti fossi nel suo condominio avrei votato per la condivisione. Lo so, e vi sareste anche molto divertiti, perché io faccio un margarita che è fantastico, l'avrei fatto per tutti. Sentiamo Mario Cucinella, che so ci deve lasciare, architetto Mario Cucinella, alla luce anche dei contributi ai nostri ascoltatori. lei ha cominciato a costruire quella che è qualcosa molto vicino all'utopia, ma io sono convinto che da qui a qualche anno, un po' per le iniezioni di popolazioni diverse che stanno radicalmente mutando la nostra società, presto arriveremo a qualcosa del genere, se vogliamo vivere un po' meglio. Ma sicuramente, a parte che alcuni commenti erano veramente fantastici, però io credo che no, dobbiamo anche accettare che c'è un cambiamento che è un po' lento, no? Tra quello che è un'eredità del dopoguerra, no? Del bisogno della casa, a quello anche di una nuova necessità. Pensiamo solo al tema energetico, al tema ambientale. Questo, al di là di tutto, forse il legame con la cultura contadina la possiamo rivedere sul fatto che avremo bisogno di condividere altre cose per una questione meramente di necessità, no? Quindi anche per esempio l'introduzione delle energie rinnovabili come qualcosa che può essere condiviso, perché alla fine è un beneficio per tutti, apre uno scenario tutto nuovo, no? Nell'idea di un condominio. Quindi io resto sempre molto ottimista, del resto faccio il mestiere d'ottimismo, sul fatto che i segnali sono molto forti, i giovani guardano questo come una grande opportunità anche per risolvere alcuni problemi pratici, e assolutamente sono d'accordo, le lavatrici le dobbiamo condividere. Volevo solo fare un appunto, nelle analisi di quello che hanno gli italiani nelle loro case, che sono pieni di oggetti praticamente inutili, la vita di un trapano nella famiglia italiana è di 10 minuti, cioè uno lo compra, spende 80 euro, poi dopo che l'ha tenuto nel cassetto lo usa, 10 minuti è la vita del trapano, quindi capisce che in una società in cui stiamo andando avanti con dei problemi anche di natura economici sulla gestione delle piccole risorse familiari, questo diventerà una necessità e ne è anche un miglioramento. Almeno la sala del bricolage potrebbe essere condivisa, però come dicevo io, caro Cucinella, sono convinto, se facessimo un'inchiesta, gli italiani metterebbero tra i beni scambiabili prima la moglie e poi il Black & Decker. Grazie Cucinella, andiamo con Laura, così chiudiamo questa parte dell'argomento. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Nicoletti. Buongiorno Nicoletti. Grazie per la trasmissione. Quante siete lì? Chiuda la radio. Chiuda la radio, sennò parla. Sì, senta. Sì. Allora niente, io porto la mia esperienza, io ho abitato in casa di ringhiera e lì si condivideva parecchio ed era proprio una vita molto aperta, però c'era il bisogno, c'era sì, anche il gabinetto si condivideva nelle case di ringhiera. Certo, c'era il famoso leopardo purtroppo, attaccato accanto che era sì, e non c'era neanche il lavandino in casa, si andava al lavatoio a lavare, però c'era apertura, c'era l'aiuto agli altri, c'era tutto, e riunirsi per vedere la televisione, chi poteva comperarsela. E però adesso questo benessere ha chiuso, no? Un po' come nella canzone di Gaber con la chiave, la Iale. Insomma tutti sono ristretti nei loro bisogni, nei loro loculi, in tutti questi oggettini che tengono, e sì, bisognerebbe veramente è la cosiddetta cultura umarellica, usando un termine proprio della osservazione di Danilo Masomasotti della società bolognese, che è poi un termine universale, questa sorta di vecchiume esistenziale che ci contamina sin dalla tenera età, che fa sì che diamo importanza a la pessima oggettistica che ci soffoca e ci chiudiamo come dei loculi dentro le nostre case. E chiudo con Mimmo Trincale questa parte dell'argomento, direttore del mensile Terra Nuova. Alla luce di quanto detto, consideri ancora un esperimento possibile nelle nostre città quello appunto del co-housing? Sì, io vorrei tornare al concetto di necessità che è tornato prima, no? Quando si parlava della cultura contadina. In realtà oggi c'è necessità di condividere gli spazi abitativi, perché per esempio, per citare solo un elemento, negli ultimi 5 anni l'uso di antidepressivi in Italia è cresciuto del 75%. Questo vuol dire che siamo sempre meno felici, per tornare a un concetto che è stato lanciato prima in trasmissione. E allora la scelta è tra essere chiusi nei nostri appartamenti blindati e prendere psicofarmaci o altre droghe più o meno lecite, oppure rischiare di incontrare le altre persone, di mettere in discussione i propri punti di vista e quindi provare a creare qualcosa di diverso. Mi sembra molto chiaro, ma l'ho detto, la felicità è il termine più tabuizzato in questi tempi, tutti la cercano, tutti ne parlano, tutti la sintetizzano e la scompongono. Quando io dico mi piacerebbe farti felice, felice, vorrei essere felice, vengo sempre guardato come se avessi fatto delle proposte oscene. Chi si muove in auto deve affrontare blocchi, problemi di parcheggio, traffico e conseguente inquinamento, mentre aumentano i costi di benzina, tasse e assicurazione. Una realtà con cui dobbiamo fare i conti, anche perché non sempre è possibile rinunciare del tutto all'auto. E allora? La soluzione si chiama car sharing. Una volta abbonati al servizio, si riceverà una card personale utilizzabile in tutte le città collegate al circuito per accedere alle auto. Con una semplice chiamata al call center è possibile prenotare il modello di auto preferito secondo le proprie esigenze. Il servizio è attivo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Ecco qua che andiamo avanti nel percorso degli innominabili oggetti da condividere. Già sulla casa avete visto, sono venute fuori molte reticenze, molte luoghi di intangibilità, ma andiamo ad esplorare il sancta sanctorum della proprietà, l'automobile. L'automobile è intoccabile, per rimaniaci l'automobile, nessuno può oltrepassare lo sportello di un'automobile se non corredato di tutte le istruzioni per l'uso. Ma chi mai metterebbe al volante la propria automobile un estraneo? Chi mai farebbe le natiche impure di un estraneo sul seggiolino, sul sedile della propria automobile? Eppure il car sharing risolverebbe molti problemi. Abbiamo al telefono il direttore dell'ACI di Roma, Riccardo Alemanno. Ciao Gianluca. Dottor Alemanno, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Un saluto agli ascoltatori. Noi ci siamo andati spesso su questo discorso del car sharing quando sei stato ospite ai nostri microfoni. Ma a che punto siamo? È ancora così difficile, così lontano? Io ho visto che le biciclette a Roma se ne sono quasi tutte fregate, e quello è un altro discorso che devono essere condivise. Ma condividere l'automobile innanzitutto, com'è possibile? In quali fattispecie è possibile farlo? E ci sono persone che lo fanno veramente o soltanto un'altra delle idee fantasiose che non trovano applicazione con i nostri umori nazionali? Beh, francamente il bilanciamento tra la necessità, che poi per gli italiani è innata, no, di avere la propria automobile, quindi di avere il possesso, la proprietà, l'intestazione dell'automobile, e l'altra esigenza di muoversi nel traffico, poter accedere alle ZTL, risparmiare sui costi fissi che sono sempre più alti. Fra parentesi, forse oggi cambio la mia dopo 16 anni, eh? Adesso tocca a te. Ma non ci credo, non ci credo, io ho sempre quella mia vecchia. Vabbè. Io e Manno abbiamo automobili di 16 anni. Purtroppo le facevano bene le automobili, quindi non si romperanno mai. Allora andiamo al punto. Andiamo al punto. Non tutti sono come noi, ma la gente l'automobile ci dormirebbe dentro se potesse, se la porterebbe sotto le coperte nel suo salotto. Certo, perché il car sharing poi in realtà deve superare una grossa barriera mentale, quella di condividere il proprio mezzo con altri utilizzatori, non estendendo l'autovettura come proprio spazio privato, quindi lasciandola pulita e non personalizzandola. Questo potrebbe essere il grande ostacolo. Quindi non ci possono mettere i cubetti di peluche, non ci si possono attaccare gli adesivi, non ci si può fare nulla. Le pallette a specchi, no, non ci possono fare nulla perché la macchina è in condivisione. Questo credo sia il grande ostacolo mentale, psicologico al car sharing. Non è che qualcuno pensa, dice, non vorrei sembrare uno sfigato se mi dicono che automobile hai, dice, io ce l'ho in condivisione. Beh, io ho pensato di, se uno deve uscire con una ragazza, fare un'uscita, dovrà presentarsi sotto casa di lei con una macchina con scritto vicino car sharing. Chissà, forse questo potrebbe anche risultare come un... No, invece affittarsi la macchina, il SUV il fine settimana, come fanno molti per fare la botta di vita davanti alla discoteca, no. Esatto, probabilmente quello è un sistema migliore per apparire più, come dire, facoltosi. Però in realtà il servizio di car sharing, mi stavo rendendo conto che si sta divulgando. Per esempio l'ICS, che è quella struttura del Ministero dell'Ambiente che coordina le varie iniziative, già nel dicembre 2010 riportava un certo numero di città per un totale di 570 auto e circa 16.000 utenti, che sono comunque pochi, cioè 16.000 abbonati al servizio, però già vedevo che adesso parte il car sharing, recentemente è partito in Trentino, a Bolzano, insomma... Sì, però guarda caso... In effetti, regioni abbastanza evolute da questo punto di vista, senza fare discriminazioni, ma è così. In effetti solo dal centro al nord Italia ci sono appunto questi tipi di iniziative. Se si vede il sito dell'ICS si nota proprio che si parla di Bologna, Modena, Roma, Savona, Genova, Monza, Brescia, eccetera eccetera, solo città del centro nord, dove evidentemente forse questa iniziativa incontra più, chi lo sa, più adesione, anche perché occorre una certa sincronizzazione, no, di costituzione di società. Però scusami, ci sono tante professioni, tanti stili di vita, per cui l'automobile si usa soltanto in certi periodi. C'è gente che va tutti i giorni a lavorare usando i mezzi pubblici, magari però il fine settimana ha desiderio o bisogno di avere un'automobile a disposizione. Potrebbero armonizzarsi queste necessità, ma ci fermiamo soltanto un istante con Riccardo Alemanno per dare appunto la linea al traffico, con il direttore dell'ACI siamo in tema, e riprendiamo il discorso partendo dal car sharing ma andando ancora avanti. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. Mi scrive Elena, è facile condividere uno spazio comune mettendoci una sdraio o una panchina. Che sforzo, parlare e condividere una cosa che è solamente tua. Beh, gli spazi condominiali in parte sono anche nostri, poi non è che deve essere un obbligo di mortificazione, non è una pratica religiosa o ascetica, bisogna condividere che bisogna essere buoni, non è Madre Teresa di Calcutta che ce lo chiede, ma semplicemente la necessità di vivere meglio, di usare razionalmente gli spazi a disposizione, di usare meglio il proprio tempo, di usare i tempi morti propri altrui per essere più felici. Ma quando si fa qualcosa in nome della propria felicità, uno deve sempre sentirsi mortificato, bisogna nascondersi, come dicevano le nonne, non dire mai a nessuno che sei felice, poi gli invidiosi chissà cosa pensano di te. Allora bisogna sempre battersi il petto, fingersi sfigati, fingersi scalognati, e guai a parlare. Flavio, buongiorno. Parlavamo di car sharing, buongiorno. Siamo passati alla condivisione delle automobili. Allora sì, io sono stato introdotto al car sharing da un mio amico che a sua volta mi ha detto che aveva fatto il contratto col car sharing. E io tra l'altro abito vicino alla metropolitana, quindi per me era perfetto, abito a Roma, in centro. E uso l'auto veramente poco, purtroppo ho visto che la condivisione dell'auto non mi conveniva, perché pagavo praticamente 200-300 euro al mese, quindi una cosa anche 400 a volte, e per prendere l'auto pochissimo. Quindi, conveniva affittarla? Conveniva molto di più invece affittarla. Sì, perché un fine settimana con una buona tariffa, una categoria bassa, costa molto meno. Sì, assolutamente molto meno, infatti mi ero informato, assolutamente molto meno. Quindi il car sharing era un po' una finzione, tra l'altro messa a nome dell'ATAC, non era una vera condivisione, cioè era una cosa a scopo di lucro, diciamo, organizzata a scopo di lucro, non a scopo di... Cioè diciamo era un affare perché aveva messo sull'apparato, ma non tanto per chi lo condivideva. Sì, tra l'altro adesso a distanza di 3 anni ho già disdetto, ma ancora non ho ricevuto l'anticipo che diedi. Diciamo così il deposito cauzionale. Ma come funzionava? Dunque lei pagava un tot mensile fisso? No, si paga un tanto a chilometro e un tanto a tempo. E adesso non mi ricordo le tariffe. Comunque, e la prende quando vuole la macchina, oppure c'ha delle limitazioni? No, basta chiamare anche un quarto d'ora prima, si può prenotare. E però evidentemente lei non ha fatto bene i suoi calcoli, la usava per troppo tempo e troppi chilometri. Guardi, io la uso veramente poco, la usavo 2-3 volte a settimana, forse neanche. Quindi ci andavo al centro commerciale, ci andavo piccoli spostamenti, al massimo facevo anche 30 chilometri fuori Roma, ma poco, una volta a settimana, quindi... E capisce che allora a quel punto è meglio anche tenersela una macchina propria, non era, infatti feci così, io avevo venduto la macchina, dopo la ricomprai, lasciai perdere il car sharing e la ricomprai perché era improponibile con quelle tariffe. Ecco, sentiamo Riccardo Alemanno, direttore dell'ACI, rispetto al problema, alla situazione di Flavio, che forse non era proprio il soggetto adatto per affidarsi a questo servizio. Beh, dunque, ovviamente ognuno deve farsi ha fatto benissimo. Un po' i suoi conti in tasca. Certo, ha fatto benissimo a valutare la convenienza economica. Chiaramente io non posso entrare nelle tariffe dei singoli carciani, che dipende molto dall'efficienza dell'organizzazione, del parco auto detenuto, dei parcheggi, dei prezzi, dei costi, però l'importante è passare appunto dall'utilizzo privato all'utilizzo condiviso del mezzo, cioè farsi i conti prima, quando si sa quanto costa un'automobile, capire se conviene. Ecco, diciamo passare dal possesso all'uso, ecco, diciamo così, questo può essere un sistema utile per poter rendere sempre più, non abbattere i costi fissi dell'automobile. Questo è importante. Si dovrebbe farsi anche i conti quanto costa, certo, all'anno la manutenzione di un'automobile. È chiaro, noi non è che lo sponsorizziamo il car sharing per presa di posizione, ma è ovvio che ci vuole un'attenta analisi dei costi, perché dipende molto dal proprio modello di mobilità. Ecco, dipende molto da come, da quale auto si vuole sostituire, quale utilizzo dell'auto, perché a quel punto il modello mentale è quello di passare all'uso, quindi un uso, di solito il car sharing va bene per piccolissime percorrenze, massimo 10.000 km all'anno, sostituire una seconda automobile in genere, non la prima, però dipende appunto tantissimo dall'uso che se ne fa. Ecco, però forse la raccomandazione è quella, fatevi i conti prima, perché se prima vi dicono quanto costa chilometro e quanto costa a tempo, vedete se vi conviene per il tempo e i chilometri che usate fare questo servizio. Grazie Riccardo Alemanno. Passiamo a Lorenzo. Lorenzo, mi sembra c'è un piccolo passo indietro, ancora parla di condivisioni condominiali. Sì, pensavo di essere ancora in argomento. No, ma l'argomento va sempre bene, lo recuperiamo. Ok, io vivo insieme alla mia famiglia e altre due in un condominio solidale. E dove si comprano i condomini solidali? Dove si trovano? Non si comprano, noi chiediamo in affidamento gratuito. E come funziona? Cosa siete? Un servizio? Noi proponiamo al territorio una vita in famiglia e condividiamo anche gli stipendi nostri in una cassa comune. Vabbè, proprio una comune siete? No, perché ho in famiglia il proprio appartamento e è sovrana nelle proprie decisioni. Ma chi ha deciso questo sistema di organizzazione? Questo sistema esiste dal 76 e è ben conosciuto come Villa Pizzone di Milano. Ma voi siete una specie di religione? No, per capire. No, è un'associazione culturale, diciamo. E chi ci guadagna in tutto questo? Ci guadagna, credo, tutta la società, perché vivere in famiglia è interessante. Chi vuole, le famiglie che vogliono, possono prendere in affidamento dei bambini come noi, oppure fare delle adozioni e altre cose. Come mi sembra una scelta di vita più radicale, più legata a una condivisione abbastanza radicale, anche di visione della vita, perché sennò non sarebbe possibile. Sono sistemi che possono andare bene per chi ha questo spirito e desiderio e volontà di condivisione, ma forse un pochino più difficilmente applicabile a vasto raggio. Qui non riusciamo a condividere nemmeno uno sgabuzzino per metterci le scope, quindi è bello, è auspicabile, fa parte comunque ancora dei livelli utopistici di condivisione. Invece vorrei arrivare a condivisioni possibili, che non è proprio una condivisione, ma è qualcosa che permette di razionalizzare, di ottimizzare anche gli oggetti che abbiamo in casa, quelle sovrastrutture che si vanno accumulando nelle nostre abitazioni, che spesso ci tolgono felicità, che magari potrebbero fare la felicità di altre persone. Abbiamo al telefono Paolo Severi. Paolo Severi, buongiorno. Buongiorno. Paolo Severi è responsabile di ZeroRelativo.it, che è un sito che raccoglie la prima community di scambio, riuso e baratto online, e promuovete il baratto, quindi dalla civiltà contadina siamo arrivati al baratto. Di cosa si tratta? Sì, in realtà il baratto è una cosa molto più moderna di quello che si pensi, soprattutto mediato dalle nuove tecnologie, insomma, mediato da internet. Ma sostanzialmente è un sito di annunci, però non è un sito di annunci tradizionale, quindi non ci sono oggetti in vendita, ma ci sono soltanto oggetti in scambio. In sostanza io inserisco un annuncio, e con lo stesso posso un oggetto in annuncio, e con lo stesso posso fare offerte per altri oggetti oppure ricevere altri oggetti. E io davanti una videata del vostro sito faccio un esempio. Sì. Avviso per chi mi ha risposto: sotto l'annuncio le cercavo abito da cerimonia. Qui era una ragazza, cercava un abito da cerimonia, trovava inutile comprarselo magari per una botte via per cui gli serviva, e quindi lo chiede offrendo qualcosa in cambio, oppure top di seta pura, portafogli la Martina, sandaletti unisex numero 34, ma anche solo oggetti di vestiario, o si entra anche in altro tipo di oggetti? No, principalmente ci sono oggetti, quelli piccoli, che si possono anche spedire con una certa facilità, quindi libri, CD, ma tantissimo vestiario, ma poi possiamo anche passare a oggetti un pochino più impegnativi. La cosa bella appunto è che non si tratta di cose, di oggetti mirabolanti, ma si tratta di cose piccole, quasi come fosse un invito, insomma, a fare consumi più intelligenti, e soprattutto anche ci vuole una certa razionalità, insomma, per portare avanti questo tipo di... E non c'è transazione di denaro, nel senso solo oggetto in cambio di oggetto? Soltanto oggetto in cambio di oggetto. Vedevo stamattina proprio degli scambi molto curiosi, ad esempio il condimento per insalate con uno zainetto, oppure un libro con una maglia estiva, quindi cose piccole che però, insomma, denotano un certo stile di vita. Va bene, questa è una curiosità, abbiamo aggiunto in questo grande sistema che abbiamo proposto questa mattina di esistenza, in cui le cose che ci sembrano più care possono essere facilmente condivisibili o addirittura scambiabili. Noi l'abbiamo buttata lì, poi vedete un po', fate come vi pare. Noi cercheremo per quanto possibile di portare avanti la nostra battaglia per dividere gli spazi condominiali. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.